questo decreto legge che inizia appunto il suo iter parlamentare in questi giorni e che a firma dei ministri Piantedosi, Nordio e Crosetto prevede fondamentalmente un inasprimento delle pene per tutte quelle che possiamo identificare come forme di lotta sociale per la casa, per l'ambiente, per insomma tutte quelle mobilitazioni che stiamo vedendo proprio in questi mesi. Fra i vari reati che vengono poi identificati c'è l'invenzione molto preoccupante, pericolosa del terrorismo della parola, ovvero fondamentalmente un reato che va a colpire chiunque venga trovato anche con del materiale di propaganda, quale può essere anche soltanto un volantino che dice come opporsi a un'opera. Questo è un altro aspetto importante perché vengono appunto inasprite le pene per chiunque si opponga alle opere, cosiddette grandi opere, definite strategiche. Infatti è una norma prevista principalmente per reprimere le lotte contro il ponte sullo stretto di Messina, ma sappiamo bene come poi queste possano ovviamente ricadere poi anche in tanti altri ambiti, come ovviamente quello delle lotte contro la TAV, ma a Bologna possiamo anche pensare all'aspetto delle lotte contro il passante. Altre pene che vengono inasprite per la lotta per la casa, ad esempio, sia per gli occupanti, sia possibilmente per le persone che vengono sfrattate e quindi per i picchetti solidali che aiutano queste persone a resistere o a trovare delle soluzioni alternative. Sì, parla anche di delitto contro l'incolumità pubblica. Beh, sì, appunto, fondamentalmente tutto questo diventa un grande schema per cercare di allargare il più possibile le maglie della repressione. Vengono inasprite le pene anche per chi danneggia il patrimonio immobiliare. Abbiamo visto le scene appunto diciamo, delle proteste di ultima generazione che più volte hanno colorato dei palazzi, ecco. Anche questo diventano delle forme quasi equiparate al terrorismo. Ovviamente questa mobilitazione prevista da tempo a Bologna assume un significato ulteriore visto quello che è successo la settimana scorsa. La tensione è alle stelle. Che giudizio vi siete fatti voi? Noi denunciamo da mesi questo nuovo asse tra il sindaco Lepore e il ministro Piantedosi, un asse diciamo ristabilito proprio in questi giorni, in cui il sindaco ha detto chiaramente che lui non vuole più occuparsi dal punto di vista politico né della questione delle scuole BESTA né di tutte le forme di lotte ambientaliste che si stanno sviluppando in città, e per questo delega tutto tranquillamente al ministro Piantedosi e ai suoi manganelli. Quindi già questo cortocircuito di una giunta che si dice democratica e antifascista e che poi appalta fondamentalmente la gestione delle contraddizioni politiche che sta creando in questa città il ministro Piantedosi. E poi in questi giorni abbiamo visto appunto le cariche a freddo fra mercoledì e giovedì al Parco Don Bosco e addirittura lo spuntare delle prime pistole, cosa assolutamente grave e preoccupante, per cui è evidente che qualcuno sta cercando di innalzare anche il clima della tensione sulle questioni delle lotte ambientali. Noi continuiamo a essere dalla parte a fianco del comitato BESTA e di tutti i comitati che si stanno opponendo in questo momento alla devastazione ambientale. Inutile dire che queste provocazioni però non ci spaventano. In questi giorni sui giornali mainstream si parlano di queste minacce all'assessore Borsari e di una protezione per la giunta. Come valutate queste cose? Anche qua non possiamo che, diciamo, porci d'accordo e metterci dalla parte del comitato BESTA, che in questi giorni ha risposto bene anche qua a queste forme di provocazioni. Noi l'abbiamo visto anche in passato, quando non ci sono più argomenti per ribattere a una causa giusta come quelle delle BESTA, si tirano fuori forme diverse di bugie, provocazioni. Abbiamo visto come più volte il comitato è stato attaccato dal sindaco, prima dichiarando che fosse comandato dalla destra, che poi fosse comandato dai partiti di sinistra. Adesso rispunta la pista anarchica, sempre utile all'occorrenza. Le scritte sono delle scritte, chi porta però le pistole nel parco, ripetiamo, sono appunto le forze dell'ordine, che in questo momento a cui è stata data carta bianca appunto dal sindaco.